a malapena riesco a mandar giù. Now body, invece welcome ti to ricordi che appetito insieme a te at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. È di nuovo mercoledì, è una delle certezze del mercoledì, oltre che la settimana è per metà andata e che ritorna Now Boarding. Quindi avete garantito il vostro appuntamento con l'ora di viaggio, giusto Lorenzo? Ciao. Sì, siamo puntualissimi anche oggi e voglio già dirti dove andiamo, perché oggi è un viaggio speciale secondo me. Andiamo in un posto in cui ci sono 2700 moschee, 120 chiese, 30 sinagoghe e tanti italiani, ovviamente, come in ogni posto del mondo. E come direbbero i Mattia Bazar, andiamo a Istanbul. Allora, siamo qui con Francesco, che è un ragazzo che ha fatto l'Erasmus là, se non sbaglio, ma che noi chiameremo Zucchi stasera, anche se per gli amici turchi lui è Fredo, giusto Francesco? Giusto. Ciao ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Checco, grazie ciao. Di avermi qua, vi rinnovo i complimenti per questa trasmissione che sono è dei bellissimo. Complimenti che non ci meritiamo, però vabbè, sei stato educato, grazie. Allora, niente, tu facci una presentazione di quello che è stato il tuo viaggio, quanto sei stato, perché sei andato là. Sì. Eri in Erasmus, no? Esatto, ero in Erasmus. Praticamente la storia è iniziata a febbraio dell'anno scorso, quando c'era da fare la scelta per le destinazioni Erasmus, dove volevo andare o in Spagna oppure scegliere una meta così alternativa. Quando mi hanno detto che a Madrid non potevo più andare, ho deciso di prendere quella quasi più assurda, perché tutti l'avevano scattata a priori, Istanbul, questa meta lontana, chissà, pericolosa, cosa succederà. E io invece l'ho scelta e sono partito così a settembre, sono tornato qualche mese fa a fine gennaio. E dopo 5 mesi intensissimi in cui è successo di tutto, credo di essere anche invecchiato parecchio. Ti vediamo un po'. Sì, un po'. Devo ancora recuperare. No, scherzo. È stata un'esperienza veramente fantastica. Sia per l'Erasmus, ma al di là del progetto Erasmus, è proprio vivere in un posto così diverso da noi. Credo al contatto con altre culture, credo che ti apra. Cerchi almeno di aprirti la mente, le viste, altre prospettive, altre cose. È stato veramente interessante, perché nonostante le mille difficoltà che ovviamente uno può trovare, quando le superi e ti guardi indietro, poi sei soddisfatto e dici va, guarda che bella, sì, che è bella avventura. E come in ogni esperienza di questo genere ne risulti arricchito se la prendi nel modo giusto, no? Guarda, lo spero. Leggevo su un libro l'altro giorno che nessun viaggio è utile se non ti porti niente nella valigia. Io non so ancora cosa mi sono portato indietro da Istanbul. Cosa hai portato indietro? Spero di aver portato indietro qualcosa. Non era tra l'altro la prima tua esperienza all'estero, no? No, ero stato a Dublino e a Londra, ma per altri motivi di lavoro, quindi questa era quasi una nuova tipo di esperienza per me comunque. Poi una volta che sono andato là anche a cercare casa, un po' lo sapevo già, però anche grazie a tutte le dinamiche Erasmus, vai fuori una sera che non conosci nessuno, torni che ne conosci 40, giorno dopo mille chiamate, trovi la casa per sbaglio, ti trasferisci, tutto. Ma tu hai cambiato anche casa man mano che vivevi là? No, in realtà sono stato 10 giorni in ostello, perché sono andato là che proprio non sapevo niente di Istanbul, pensavo si dicesse salam per dire ciao. Ah, ok. C'era il kebab, invece no, così. Vuol dire salam. No, è sempre un saluto, però non è proprio merhaba, è ciao. E quindi sono andato là che non sapevo quasi niente. Mi sono preso 10 giorni per vedere la città, scegliere cosa fare. E una volta che ho deciso sono andato a Beşiktaş, un quartiere ragazzi favoloso. Soprattutto c'è anche una squadra di calcio. Sì, il Beşiktaş. Esatto, il Beşiktaş, sì. E sono spaziali, i tifosi sono fenomenali. E quindi, ma tu sei andato anche a vedere qualche partita? Sì, dopo una settimana che ero là ero allo stadio. Ah, cioè subito? Sì. Anzi, ti sei trasferito. Guarda, là. Esatto, mi è piaciuto troppo. Dirò, la partita è stata noiosa perché non sanno veramente giocare a calcio. Però il pubblico è spettacolare. Cantano dall'inizio alla fine, cori, Ma certo. È una partita del campionato turco? No, era una partita di Europa League, tra l'altro. Ah, ok, sì. Okay. Io speravo di poter vedere Beşiktaş-Juve un giorno, ma la Juve è finita prima. È meglio il Beşiktaş in questo momento. Tanto bianco-nera comunque, quindi. Ecco, infatti. E, niente, quindi dove ti sei trasferito dopo questi 10 giorni d'ostello? Esatto, tramite amicizia ho trovato questa camera in un appartamento condiviso con altre 6 persone, quindi eravamo in 7 dentro, c'erano 2 turche, 2 tedeschi, una svedese, una spagnola e io, quindi super multiculturale. Ecco, quanti eravate in appartamento? In 7. Un bagno più uno d'emergenza. Però ognuno con tempi diversi, quindi ci si gestiva bene. Dacci che c'era quello di emergenza. Io vorrei capire cos'è quello d'emergenza. Quello del vicino, probabilmente. Quasi. Era un buco dove c'era solo una turca, il bagno. Non nel senso di donna. No, non donna, proprio la tazza turca. Francesco, ci siamo già giocati la battuta. La facciamo lo stesso, la battuta. Dopo la rifacciamo. La facciamo dopo. Vedrai. Okay. Però non è servito molto. No, era in un quartiere che era veramente, secondo me, uno che ti dà più l'impressione di essere in Turchia, perché era quasi pedonale, c'erano poche vie dove passavano le macchine, comunque i pedoni avevano quasi sempre la precedenza, c'erano tutti che bevevano questi chai, il tipico per le stradine, o che mangiavano fuori il venerdì sera, sabato sera. Scusa, cos'è che bevevano? Il chai. Il chai è un loro bevono il chai come, che è un tè, come noi beviamo il caffè, quindi si fermano, un chai, si fermano di nuovo, un altro chai. Il tè turco? È un tè turco, sì. Viene servito in un bicchierino piccolo che sembra un mini vaso da fiori, che ne so, che puoi mettere margherite nel tavolo dove fai la cena, e ti viene servito caldo con lo zucchero, se vuoi. E costa poco e se lo bevono così tranquillamente, magari giocando a backgammon per strada. È pieno, infatti, che è lo sport, che è, lo, è quasi lo sport nazionale dopo il tennis. Infatti io sono andato là che calcio, non sapevo backgammon. Esatto. E ho imparato backgammon e sono tutti che giocano e si insultano quando uno perde, lo insultano. è una cosa per la quale litigano, si uccidono vicenda. Sì, ho capito. Sì. Dopo che ti sei trasferito, diciamo il primo periodo con l'università, come ti organizzavi? Guarda, è stato all'inizio difficile capire come muoversi, perché nonostante sia una città molto servita anche dal punto di vista dei trasporti, perché c'è tram, autobus, metro, traghetto, perché anche là, essendo sul Bosforo, poi ne parliamo, c'è il traghetto, è molto servita, però oltre al traffico è tutto spiegato in turco, quindi all'inizio è stato molto difficile capirsi. Comunque andavo comunque durante la settimana all'università, tra l'altro l'università devo dire che ha molto da insegnare alle nostre università, okay, perché poi è un ex campus americano. Poi ne parleremo meglio dell'università. Benissimo. Allora, non possiamo parlare di Istanbul senza parlare della questione dei nomi, e noi lo facciamo con un pezzo dei Might Be Giants, che è appunto Istanbul Not Constantinople. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. A Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Bentornati in studio con Now Boarding. puntata su Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio. Li ho detti tutti, Zucchi? Sì, sì, li hai detti tutti. Ce n'è un altro che diceva un mio amico che veniva da fuori, che la chiamava 34, perché corrisponde al codice della targa, i primi due numeri riferiti alla provincia. E quindi un altro nome che abbiamo imparato, Lorenzo, vedi? Dove stai andando? A 34. Ah, io andavo a 36 invece. No, hai sbagliato strada, era prima. Okay. Parlavi dell'università, Zucchi, sì. No? In che senso ha molto da insegnare? Guarda, sia dal livello dei corsi, sia come veniva vissuti dagli studenti. Bisogna dire che questa era un'università che era stata... inizialmente un campus americano, quindi una specie di college, quelli che si vedono in TV, nei film, dove vedi per esempio il giardino con tutti i ragazzi là che parlano e scherzano, e tu dici vai, è un film, non è vero, è una cazzata. Invece è proprio vero, ci sono alcune scuole che è così. Anche noi, nonostante il tempo spesso essendo in autunno fosse brutto, nelle belle giornate stavamo fuori, ci godevamo la giornata fuori con tutti gli altri ragazzi Erasmus, eravamo sempre collegati. E poi la didattica, i professori erano riferiti, al mio caso, erano molto meglio che a Ca' Foscari. Io studio economia qua a Ca' Foscari, a Venezia, e in classe siamo più di un centinaio sempre. Là invece eravamo un massimo 40 persone per corso, quindi il professore ti conosceva. Ti seguivano anche meglio. Ti seguiva, nome e cognome. E tutto il corso era una fase di sviluppo quasi personale in cui ti seguivano e andavate pari passo. I libri quasi non servivano. Bastava andare a lezione, seguire, intervenire, si discuteva e alla fine... viene arricchito molto di più che leggere semplicemente un libro da riportare poi a un esame orale alla fine del periodo. Per dirti, anche gli esami finali ne avevamo diversi e erano tutti nell'ultima settimana, ma è stato facile farli perché era solo recuperare quello che avevamo già fatto, spesso anche senza appunto leggere i libri, ma solo dagli appunti, dalle slide, ricordando i vecchi discorsi. Quindi le lezioni erano preparate talmente bene che... Sì, sì. Poi l'università era vissuta anche al di là dello studio, sia come mensa che come spazi comuni, che come club. Per esempio c'era club radio, foto, paracadute. Paracadute? Paracadute, sì. Avrei voluto farlo, però andavi a lezione, ti paracadutavano lezione dal cielo. ma erano cose veramente serie. Oppure sub, qualsiasi sport, qualsiasi interesse, se ce l'avevi. C'era anche quello di scacchi, per esempio. E quindi potevi viverla in maniera molto completa, era più... Sì, una vita universitaria molto attiva e sì, molto ben organizzata. Esatto. Non era come una continuazione delle superiori dove vai a lezione e poi c'è la tua vita, ma era proprio quasi parte della tua vita. C'era gente che spendeva proprio la propria giornata, al di là dello studio, proprio per attività con gli altri studenti. Ma come gente tu ti trovavi con molti turchi o più che altro con quelli dell'Erasmus? Allora, nelle classi erano quasi tutti turchi. Infatti spesso le prime lezioni... devo alzare la mano e dire scusi, può parlare in inglese? Perché... e tutti mi guardavano malissimo perché là non parlano molto bene l'inglese. Ah, ma perché se non gli dicevi loro parlavano in turco? No, esatto, qualcuno di loro avrebbe parlato in turco. E alla fine del corso mi hanno ringraziato perché così hanno fatto un po' di esercizio di inglese. Però all'inizio mi guardavano tutti in cagnesco, tipo, ma questo cosa vuole? Il rompipalle, esatto, che vuole rompipalle. Che parliamo in inglese. Comunque no, più che altro i miei amici erano quasi tutti Erasmus anche loro. Ce n'erano più di 400 alla mia università, quindi c'era una... Ah, come grandezza questa università è più o meno... Era più o meno come Ca' Foscari, mi pare che avesse più o meno 20.000 studenti, 15.000. Immagino che sia una delle tante ci sono a Istanbul di università. Sì, sì, però questa ho scoperto dopo, andando là, che era una delle più prestigiose in Turchia, se non la più prestigiosa, soprattutto per l'area di economia. Ha un nome particolare? Sì, Boazic. Boazici Università, okay. Che si scrive Boazici come lo stretto sul Bosforo. E come la scritta che hai sulla schiena? Esatto, ecco, perché lui ha una felpetta tipo le felpe quelle delle squadre di baseball che vedi nei film americani. Ma guarda, mi piace un sacco questa felpetta. No? Ecco. E quindi è una delle più rinomate, dicevi? Sì, tra l'altro io sono andato là e dicendo vabbè, vado a Istanbul, mi faccio la mia esperienza dal punto di vista dello studio, chissà come sarà, non mi aspettavo niente. Invece sono arrivato là e grande sorpresa dal livello, anche i professori erano tutti turchi ma avevano quasi tutti studiato in America. Quindi grande preparazione. Lanciamo un pezzo, Lorenzo? Sì, dai. Allora, oggi ci siamo intromessi un po' nelle scelte perché avevamo l'urgenza di mettere alcuni pezzi dentro la nostra playlist. Io ne ho scelto uno in particolare di un gruppo, non so se tu lo conosci, Francesco, sono i Babazula. Sì, sì, sì, chiaro. Là li ascoltano? Sì, sì, sì, li ascoltano. Allora, la scena musicale è molto vasta, però sono chiaramente conosciuti. Infatti, io l'ho scelto perché è in particolare un pezzo che è all'interno di una colonna sonora di un film documentario, è stato girato e presentato nel 2005 al Festival di Cannes fuori concorso, e di Fatih Akin, in cui il regista praticamente allestisce una specie di studio di registrazione portatile, va in giro per le strade di Istanbul a riprendere i gruppi che suonano, e quindi è un film documentario sulla scena rock indipendente di Istanbul, no? E qui ci sono anche i Babazula, tanti gruppi, i Duman che sentiremo dopo. E mi sembrava appunto interessante citarlo perché Istanbul alla fine sembra avere una scena molto effervescente, sì, guardando questo documentario, no? Soprattutto a livello anche un po' underground, come cercare di fare questo docufilm, e rimani sorpreso, può piacere o non piacere ovviamente il genere, però è bello vedere che ci sia questo spirito sotto dei ragazzi che cercano il loro modo di esprimersi con la musica, e questo film cerca veramente di dare una visuale. Certo. Certo, allora andiamo ad ascoltarci i Babazula con Tavus Havasi. Thank you. questo ponte tra musica occidentale e orientale, i Baba Azzurra, torniamo in trasmissione con Zucchi, ormai mi viene da chiamarlo così, non ci posso fare niente. Chiamiamolo Fredo, dai, col soprannome turco. Tanto Francesco non lo sa più nessuno, quindi... Ecco, neanche i tuoi genitori, diciamolo. Riguardo a Istanbul, siccome parlavamo prima in privato che ha avuto un impatto un po' forte su di te all'arrivo, no? Sì. Puoi spiegare un po' questa cosa, cosa è successo? Sì, al di là del viaggio in aereo, che già all'aeroporto ho visto facce un po' strane, però non sapevo ancora bene niente. Tipo cosa? Tipo, iniziavo a vedere qualche velo, qualche famiglia un po' più chiusa, gente molto abbronzata, pelosa, bassa, un po' grossetta così. Un po' diversa dai veneti. Sì, però anche devo dire che questa è un po' una generalizzazione che ci viene nella testa più che essere reale. Ma il vero impatto è stato quando sono arrivato là. Sono arrivato un sabato mattina, che erano le 4-5 di mattina, e quando sono uscito dall'aeroporto, appena uscito dall'aeroporto, hanno cercato già di fregarmi, perché se sei amico dei turchi ti trattano come un fratello, come il migliore degli amici. Ma se non ti conoscono cercano di fregarti come il turista. E quindi già là il tassista che voleva portarmi in centro per 160 euro, cosa fuori da tutti i limiti. Comunque poi ho trovato l'autobus, sono arrivato in centro e era presto di mattina, quindi 4-5 come dicevo, e era la fine, quindi la fine del venerdì sera per loro, e c'era molta gente, diciamo un po' ubriachella per strada, gente che ho avuto il primo impatto con le strade, quindi traffico impazzito, gente che si tampona, anche se non ho visto veri proprio grossi incidenti. Oddio. Ma tutti là ci sono tutti i taxi che hanno le portiere ammaccate, oppure gli manca un pezzo, un paniere rotto, così. Però sembra che loro si trovino bene là. Quindi al di là del traffico c'era tutta questa gente che cantava, urlava per strada, e non conoscendo la loro lingua rimane un po' basito, non sai bene se stanno, cosa stanno facendo, se stanno litigando, se sono in festa in o realtà cosa. Magari sono tranquillissimi, ma sì, esatto. Sembra che... Solo che la strada veniva da una parte della città che non è proprio tranquillissima, quindi là effettivamente c'era qualche zuffa. E là ero col mio bagaglio, col mio zainetto, ho detto... Ok, non sono nel momento giusto, nel posto giusto al momento giusto. Comunque, poi grazie a un autista, grazie a Google, al Ovi Maps di Nokia, che per fortuna c'era il navigatore, sono riuscito ad arrivare nel mio ostello che mi ha ospitato, e da là poi è iniziata tutta l'avventura. Quindi c'è stato un impatto un po'... Non dico pauroso, però un po' forte con la città. E proprio dal punto di vista, no, anche architettonico, cioè mi sembra una città molto d'impatto, no? Sì. Io ci vedo un sacco di... Beh, tu tipo ti apri Flickr, sì, cerchi Istanbul, trovi queste immagini, no? Spesso al tramonto, sono molto suggestive. Sì, no? Molto suggestiva come città, soprattutto al tramonto o anche all'alba, cosa che ho visto più che altro per fine serata che per inizio serata, ma anche perché, come diceva Lorenzo prima, è pieno di moschee e quindi vedi un sacco di... Minareti, anche se i minareti adesso hanno il megafono, perché non vanno più sul tetto a urlare, ma c'è il megafono tutto controllato, e vedi un sacco i minareti, e quindi è veramente una vista totalmente diversa dalla nostra. Come puoi vedere a Venezia le chiese con i campanili e tutte queste nostre case, là se vedi il minareto, la moschea, vedi un sacco di gente che gira per strada, anche architettonicamente molto, molto diversa. Sempre riguardo all'impatto, tu ti sei ambientato subito, ci sono state un po' di difficoltà all'inizio? Guarda, più che altro le difficoltà all'inizio erano per l'inglese, perché là veramente lo parlano in pochi, e quelli che lo parlano di solito lo parlano due parole, anche al ristorante a volte non capiscono niente. Quindi da quel punto di vista è stato un po' difficile iniziare a capire cosa mangiare, cosa stavi ordinando anche al ristorante. Anche all'università lo parlavano in pochi? No, in università molto di più, perché là dovevano fare un test di inglese per accedere all'università. Però anche là comunque era un inglese un po' turchizzato. Sì, esatto, turchizzato. Beh, ma anche in Italia dovrebbero fare lezioni in inglese. Un po' macaronico, esatto. Comunque no, per il resto città che è molto accogliente verso i te, ti dà tutto, e anche i turchi ti sono straccoglienti verso i te. Per esempio un giorno mi ricordo che stava piovendo, c'era traffico per andare all'università, allora ho detto oggi provo un'altra strada, fatto sta che mi sono perso. Pioveva, non avevo l'ombrello, allora mi sono fermato, c'era una signora, una fermata dell'autobus, ho chiesto aiuto, lei non parlava inglese quindi non sapeva aiutarmi, ha fermato due ragazze che stavano passando. Loro si sono fermate, mi hanno chiesto cosa volevo, mi hanno portato per 5 minuti sotto la pioggia, anche loro senza ombrello, alla mia fermata dell'autobus, da cui avevo preso l'autobus per l'università, e erano contentissimi di aiutarmi, e gentilissime veramente. Quindi sono molto ospitali verso i te. Tornando alla città invece, io ho sempre avuto, cioè, un po' questa curiosità. Istanbul è divisa da, sì, appunto, in due, cioè c'è una Istanbul europea e una, esatto, asiatica, credo, sì, unica capitale al mondo a stare su due continenti. Anche perché è una capitale della cultura, in realtà, non è la vera capitale. Esatto, giusto, è vero. Vedi che a volte sfugge questa cosa, sì, che la capitale è Ankara. Ok. Poi in realtà si percepisce questa divisione in due, in realtà è tutto un continuo poi. Dunque, io direi che è divisa geograficamente in due, ma in realtà è divisa in tantissimi quartieri, perché è vero che la parte est del Bosforo è più asiatica, la parte a ovest è più occidentale, però anche dalla parte occidentale c'è il quartiere come Shishli, quello modernissimo dove vedi un sacco di Porsche, vedi locali stile moderno che sembra quasi essere a Londra, e fai 500 metri ti trovi case decrepite, gente che non gente ancora tradizionale con i classici veli o che vanno a pregare, si fermano dal lavoro per pregare, cosa che non succede in altre parti. Tipo all'università sentivamo il mujahideen che faceva la preghiera, che chiamava la preghiera, anzi, e all'inizio era un po' le prime volte un po' cosa succede, poi ho capito che era quello, ma nessuno si fermava, si continuava tranquillamente. E quindi poi c'è il quartiere anche Sultanahmet, che è quello turistico, che vi dirò è più una Disneyland del turismo, perché cercano di vendere l'Islam, l'immagine dell'Islam. È tutto fatto ad arte, diciamo. È finto, sì. Un Islam, cioè, da cartolina. Magari. Per carità, la Hagia Sophia e la Moschea Blu sono i veri monumenti che ci sono, erano veramente i luoghi di preghiera di una volta. Ma adesso ci sono gite controllate, cartoline, film, video, tutto quello che vuoi. Quindi è quasi come andare a Disneyland per cercare di vedere un cartone animato. Se uno vuole veramente capire cos'era l'Islam, dovrebbe portarsi più nella parte meno conosciuta, quella magari più asiatica, o farsi un viaggetto. Però chiaramente un turista non può farlo da solo, perché ci sono delle difficoltà, quindi già quello è un po' uno sguardo. Poi ci sono altri quartieri come Beyoğlu, dove c'è Taksim e Istiklal Caddesi, non so se l'avete conosciuta. Taksim è la piazza principale. È la piazza principale, esatto, dove c'è stato tra l'altro un attentato. Però non è successo mentre c'eri tu? Mentre c'ero io, sì. Domenica mattina, però, quindi eravamo salvi. Non c'era pericolo. Dormivi perché la domenica, esatto, non studiavo. Ti svegli. Quasi. La vita dell'Erasmus. Sì. Esatto. Beh, c'è questo Beyoğlu con tutti i centri commerciali. Infatti è un po' anche là la via principale, però sembra quasi di essere a Henry Street a Dublino o a Piccadilly Circus quasi a Londra. E poi basta spostarsi anche là dalla strada principale e torni di nuovo in questo clima asiatico, in cui è tutto diverso. Quindi fatto di, non so, bazar o... Bazar, ma anche proprio se in Istiklal Caddesi ti puoi trovare Benetton, Apple, tutti questi negozi qua, o Gap o qualcosa, fai 10 metri e c'è un negozio di cui vendono, che ne so, vestiti fatti in Turchia, costano un decimo di quello che pagheresti, e in cui c'è il negoziante ancora di una volta che li vende a vecchio stile, che chiude presto, che segue le tradizioni loro, e quindi è tutta un'altra mentalità. Quindi tu, tipo, cioè, c'hai, non so, Zara, svolti l'angolo e trovi in realtà il, esatto, buchetto e trovi il negozietto di una volta. Zaram. Esatto. Oppure anche all'interno proprio della stessa Istiklal, per esempio, c'è un negozio vintage che è fighissimo. Alla fine della strada c'è una specie di galleria. In fondo a questa galleria si scende su delle scale e trovi in un negozio vintage che vende vestiti di una volta pazzeschi. Tipo, ci sono anche dei vestiti delle vecchie guardie, dei vecchi militari turchi. Ti oppure sei preso cappelli. qualche negozio? Sì, ho acquistato, ciao, due negozi. Okay. Sì, così. Ti sei preso qualche vestito turco per caso? Dunque, vestiti turchi? No, però ho avuto in regalo da un posto che diremo dopo. Una specie di calzino ciabatta costruito a uncinetto da una tizia, che tra l'altro non era per me ma per mia mamma, quindi questa è la cosa più tipica. Okay. Poi, avendo la valigia piccola, comunque non ho comprato molti vestiti turchi, e devo dire che a Istanbul vestono quasi occidentale. Okay, quindi sono più occidentali come modo di vestirsi. Sì. Beh, passiamo allora, io direi, a un altro pezzo, un pezzo italiano dei CDCP. Non riguarda proprio Istanbul, diciamo che forse più riferito a Berlino. Questa è Punk Islam dei CDCP. Punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam, punk Islam Wir sind di Türken von Morgen era quello che si chiedevano a Berlino, credo 30 anni fa, quando iniziò l'immigrazione turca, ovvero noi saremo i turchi di domani. I turchi di oggi invece sono europei, Zucchi. Qua bisogna distinguere tra turchi e abitanti di Istanbul. Diciamo che soprattutto a Istanbul c'è un grosso movimento che sta portando le persone a essere molto più occidentali, a seguire il nostro modo di vita, lo stile, e credo che sia dovuto soprattutto ai soldi, dal profilo economico, perché iniziano ad avere i soldi, iniziano a copiarci, a seguire i nostri stili, anche loro iniziano ad essere interessati più a come spenderli, allo stile, per esempio la macchina una volta magari interessava meno, adesso anche l'apparire, purtroppo in alcune parti di Istanbul sta iniziando a fare ad avere la sua importanza. Poi c'era un aspetto molto importante, secondo me, e interessante riguardo la religione, non so se volevi... Sì, cioè ad esempio appunto la Turchia è un po' il simbolo di un processo di secolarizzazione dell'Islam, sì. Cioè quello un po' la tendenza a mettere un attimo da parte quella che è la propria religione in favore proprio dello stile di vita che sta diventando occidentale. Sì, infatti io vorrei fare un collegamento che è una delle cose che mi è bastata agli occhi subito dopo aver conosciuto un po' di gente turca, che è la corrispondenza un po' che c'è tra le chiese e Venezia e le moschee a Istanbul. Sì, sì, sì. Venezia è piena di chiese, però non ci va più quasi nessuno, ci vanno poche persone, soprattutto di una certa età, gli anziani, e nonostante questo ne è piena Venezia e sono anche bellissime, ma sono vuote. A Istanbul più o meno sta succedendo lo stesso, cioè la nuova generazione inizia a non andare più a moschea, è quasi un modo di ribellarsi anche a tutti i limiti che vengono imposti al di là della fede in sé, proprio della religione, della struttura religiosa. E le moschee, nonostante siano così belle, perché dal punto di vista comunque architettonico danno un grande effetto, e sia dal punto di vista della vita, vengono quasi abbandonate di proposito dai giovani, che comunque, vedendo anche il mondo occidentale come un modello, così come i giovani di San Donà iniziano magari a andare meno in chiesa, loro lo stesso iniziano ad andare meno nelle moschee. Come dicevo prima, a volte per esempio anche all'università si sentiva il mujahideen che parlava, e credo che 50 anni fa chiunque si sarebbe fermato per pregare, adesso invece ognuno continua a fare la sua vita, poi se uno è religioso è una cosa in più. Devo dire comunque che l'Islam, così come ho avuto l'impressione prima di andare là, lo vedevo come una religione molto fiscale, che fosse molto rigida. In realtà, come me l'hanno descritta là, è una cosa molto più simile a quella che è l'essenza della religione cristiana che abbiamo noi. Cioè, non è troppo importante la forma, ma è più la sostanza. Tu puoi essere un bravo musulmano e non andare a andare in moschea, oppure potresti essere quello che sembra che va alla moschea, che è dentro ai comitati religiosi, e poi fuori ti comporti malissimo. Per esempio come la figura della donna, vabbè, però qua scende un po' a parlare di cose molto, molto specifiche. Nello specifico, cioè anche nell'organizzazione del lavoro, no? Sì. Il giorno sacro, la nostra domenica, è il venerdì per sì. loro. Sì. In realtà poi l'università, ad esempio, o almeno questo è quello sì. l'idea che ho io. Cioè, l'università poi come è scandito? No, in realtà è scandito come il nostro. Cioè, anche loro erano fermi la domenica. Sarebbe il sabato, probabilmente, quello più rigoroso da rispettare, perché dal venerdì sera sarebbe al sabato sera. Comunque all'università c'era il calendario nostro praticamente, quindi l'unica differenza era il Natale nostro è il 25 dicembre, loro lo seguono sempre quello islamico, che cambia ogni anno perché c'è un altro calendario, quest'anno era a fine novembre. Anche i negozi ormai quasi non c'è più religione, diciamo, sono sempre aperti 24 ore su 24, quelli più importanti, no, 24 ore su 24 no, però da presto la mattina fino a tardi la sera, e tutti i giorni della settimana, venerdì, sabato, domenica inclusi, anche i giorni di festa talvolta. E questa è un po' una cosa che ammazza le culture, perché poi ti dirò anche la sera, venerdì e sabato sono le giornate dove si va più fuori, e al di là, oltre a tutta la gente internazionale, c'è una grossa vita proprio della comunità turca, che esce la sera e si diverte quasi come facciamo noi occidentali, quindi va al bar, va alla discoteca. Ormai tutto il mondo è paese. Tutto il mondo è paese. Trovi tutte le stesse usanze sì, ovunque. Sì. Poi ci sono posti diversi, per carità, però. Certo, e possiamo andare con altro pezzo, Francesco? Sì, che hai scelto. Sì, ho scelto un pezzo di Duman, perché si chiama Bu Aksham, e nel testo si collega al. di cui abbiamo parlato, perché dice stasera bevo, e è un chiaro riferimento a stasera bevo alcol, che è una cosa vietata dalla religione, ma i ragazzi comunque vanno in discoteca la sera o nei bar. Ah, e quindi formalmente sarebbe vietato a Istanbul bere? No, se una religiosa non beve, non è vietato di per sé legalmente, cioè vendono... Non devi dirlo ai tuoi genitori musulmani. Esatto, dipende quanto ci tengono la religione, esatto. Ok, allora noi andiamo ad ascoltarci questo pezzo dei Duman che si chiama Buaksham e ascoltiamocelo. Now boarding Istanbul, mentre Francesco durante la pausa ha iniziato un suo duello personale col mixer, perché... dei colpi, è una lotta tra me e il mixer. Ecco, allora, abbandoniamo questa lotta e torniamo in Turchia un attimo, perché Zucchi, tra altre cose, ha fatto un bel giretto ed è andato in Mesopotamia e vuole parlarci in particolare di Diyarbakır. Puoi dirci dov'è, cos'è? Sì. Ti racconto un attimo la storia. Praticamente durante, come dicevo prima, il Natale islamico quest'anno era a fine novembre e c'è stata una settimana di vacanza all'università. Quindi sono andato 3 giorni da mio amico a Izmit, vicino a Istanbul. Andando là, quindi avevo uno zainetto per 3 giorni, quindi avevo un ricambio e niente dentro, un libro e basta. Che avventuriero, fantastico, quanto fascino. Avessi delle foto. E andando là ho chiamato un altro mio amico che avevo conosciuto a Istanbul. Lui è un curdo e gli ho fatto per fargli gli auguri di buon Natale, di buon Bayram, e lui mi ha detto: ma vuoi venire a Diyarbakır? Io ho detto sì vengo, non avendo idea di dove fosse. Arrivo, aspetta, mi esatto. Cambio e sono là. Allora mi sono fatto mandare un messaggio per sapere come si scrivesse, perché non sapevo. E quindi dopo essere stato questi 2 giorni dal mio amico, ho comprato un biglietto per questo famoso Diyarbakır, che ho scoperto essere a 18 ore di autobus da dove ero. Ho detto vabbè, iniziamo questa avventura. Allora prendo il biglietto e salgo in autobus, e dopo 18 ore in mezzo al deserto di notte, dove ogni sosta che si faceva veniva pulito l'autobus e bagnato da fuori, credo perché non si surriscaldasse e non avesse troppa polvere, e dopo 18 ore di deserto e grande città, siamo arrivati a Diyarbakir, che è quasi il centro della zona curda del paese. Sì, si vedeva un'ombra nella collina di Diyarbakir ed era Zuki che arrivava dal nulla dopo il pellegrinaggio. In realtà è una città molto grande e sono stato insieme a questo mio amico e siamo stati scarrozzati in giro da un suo zio e un suo cugino in una Renault 9 sgangheratissima che aveva, pensate che aveva il sensore della benzina rotto. Quindi lui ha istinto, si fermava a far benzina. Io un po' mi cagavo sotto perché sei in mezzo al deserto, nel nulla, se ti muove la macchina, boh, che fai? E comunque interessantissimo perché eravamo finalmente nella Mesopotamia, finalmente nel Tigri, quello che ti insegnano a scuola, Tigri e Eufrate, esistono davvero. E sono anche bei fiumi abbastanza grossi. E quindi siamo andati, ci portavano in giro. Tra l'altro questo suo zio era uno del, è stato uno degli esponenti del partito del PKK, quindi il partito curdo. E è stato un peccato che non parlasse zero inglese, per cui c'era il mio amico che doveva sempre tradurre e dopo una settimana mi diceva basta, non voglio più tradurti niente, perché era sempre il tramite tra me e gli altri. Comunque è stato molto interessante, soprattutto perché abbiamo vissuto per 5 giorni in un posto totalmente diverso, con una cultura completamente diversa, lo stile di vita e per esempio là sì che si vedeva la vita come era, diciamo, sì, là, diversa da quella occidentale, esatto, no? Esatto, là i valori, tutto era completamente sottosopra. Per esempio noi siamo sempre indaffarati, abbiamo mille cose da fare, università, lavoro, interessi, eccetera. Là c'era gente che si annoiava quasi dalla mattina alla sera, si viveva tranquilla, non aveva niente da fare. Pensa che sono finito a un matrimonio curdo e ho conosciuto, tra l'altro, 200 persone da una famiglia, 200 persone dall'altra, perché erano come le vecchie nostre famiglie. E questo mio amico mi ha presentato una sua cugina che aveva 21 anni e aveva già 3 bambini. E tra l'altro, appunto, quindi un matrimonio tradizionale, dicevi, lì l'etnia curda credo sia abbastanza radicata e mi sembra che invece c'è una questione ancora aperta tra la Turchia e la minoranza curda, no? Sì, decisamente, là in quella zona, in quella regione si sentono soprattutto curdi, anzi si sentono proprio curdi più che turchi, infatti cercano sempre di essere riconosciuti. C'è da dire che la questione curda, così come quella armena, sono due questioni ancora molto aperte e scottanti del panorama politico turco e questioni che devono assolutamente essere risolte in futuro. E infatti si può benissimo vedere tra una città e l'altra alcune, quasi chiamiamole oasi militari, che sono proprio delle basi protette con un sacco di protezione dell'esercito, dei militari turchi, perché hanno sempre paura che ci siano degli attentati, di subire attentati, e allo stesso tempo sono sempre pronti a entrare in azione in caso di necessità. Infatti mi sembra che, insomma, la questione dei problemi, dei diritti, riconoscendo dei diritti civili appunto alla minoranza curda, credo sia uno degli scogli che deve passare la Turchia per essere ammessa in Europa. Sì, decisamente. Ma oltre che diritti civili, come dicevi, è proprio anche delle questioni a volte un po', non dico superficiali, però secondo me ci sono alcune questioni che dovrebbero essere le due parti dovrebbero venirsi incontro invece di fare un muro contro muro. Per esempio la lingua turca, che da un lato non vogliono riconoscerla, dall'altro vogliono che sia la lingua ufficiale e unica parlata nel posto. Quindi là c'è un muro contro muro. Anche come si qui fa? Diciamo potrebbero venirsi incontro e accettare delle minoranze, sì, in certi posti, sì, in cui invece che parlarsi in lingua turca, sì, si parla, diciamo che, esatto, parlarne così probabilmente è facile, sarebbe un discorso che va avanti da secoli, però... Now boarding, speciale politica internazionale, ecco, e diritti umani. Esatto. Sono qui inviato ad Ankara. Poi quindi dalla Mesopotamia, quando me l'hai raccontato, sì, pensavo non esistesse più, sei ritornato verso Istanbul, tappe, sì, Ho fatto una tappa ad Ankara, questa, diciamo, fake capital city, perché in realtà non è una vera capitale, la vera capitale è la Turchia. Sulla carta è Ankara, ma in pratica è Istanbul. Ankara, che è stata costruita apposta per essere più in centro, per essere una zona più equilibrata. Avevano paura che la capitale fosse troppo europea. Troppo europea, quindi... esatto. E comunque lo è. Anche Ankara, tutta la parte nuova che stanno costruendo è in stile occidentale. Quindi non si sfugge, ecco. Sembra di no. Ci sentiamo quindi un pezzo che richiama la musica popolare turca. Un pezzo che si chiama Mavi Im di Kemani Cemal. Mavi Im Now Boarding, un programma che ha il suo perché e ve lo spiego subito. Allora, Zucchi, siamo partiti da Istanbul, abbiamo iniziato il tuo viaggio verso Diyarbakir, passiamo per Ankara, passiamo per Ankara e ritorniamo ad Istanbul. Sì. Ci devi dire l'immagine più forte che ti è rimasta di questa città. Allora, una in particolare forse è quando mi prendevo il mio tempo di Isola di Pace e andavo sul Bosforo, là vicino a casa, sempre il quartiere Beşiktaş, dove che c'era quindi lo stretto che divide appunto l'Europa e l'Asia. Quello no? È il Bosforo, esatto, quello è il Bosforo, lo stretto. E andavo in questo andavo sul molo, dove c'era la fermata dei vaporetti, dei traghetti che collegano Beşiktaş con tutto il resto della città, e avevo una visuale sia dell'Asia che del ponte, che è un ponte bellissimo, e sia di Sultanahmet e il mar di Marmara e in fondo le Princess Island. Quindi avevo una vista su tutto questo panorama, e soprattutto la sera, ora il tramonto era bellissimo col sole che scendeva dietro Sultanahmet con tutta la parte asiatica illuminata, e ho fatto anche delle foto, era molto suggestivo. Fantastico. Lorenzo, dobbiamo rovinare questo momento con i contatti. A oh te la parola. Oddio, che brutta cosa. Vabbè. Ci provo. E allora, i contatti sono i seguenti. Voi potete benissimo ascoltare con le casse del vostro computer il nostro podcast su www.radiosandona.it, il sito di Radio Sandona, oppure il nostro sito, il blog nowboardingrsd.wordpress.com. E potete aggiungerci e dire mi piace nella nostra pagina Facebook Nowboarding RSD, oppure scriverci info.bandieragialla@gmail.com o nowboardingrsd@gmail.com per scoprire poi chi ha vinto tra il mixer e Francesco. Oppure potete chiamare sempre a Radio Sandona 0421 560 993, o scrivere a Radio Sandona radio@radiosandona.it. Mi sembra che sia tutto. Quindi, chi vuole insultarci ha modo di farlo. Plurimi strumenti. Beh, Zucchi, è stata secondo me una grande esperienza che ci hai raccontato, e si vede che ti ha, no Lorenzo, che lo ha comunque... Sì, beh, sì, per me lo è stata, sì. Spero di essere riuscito a trasmettere qualcosina anche a voi. Sarebbe bello avere il trasporto per andare nei luoghi dove sono stato a vederli con mano. Sarebbe bello, ci tocca rimanere forse in radio a noi. Hai in programma qualche di ritornare a Istanbul magari per ritrovare qualche amico o rivedere? Quello sicuro, però sto iniziando a programmare qualche altro viaggetto in giro per l'Europa o per il mondo. Lo prenotiamo già per una prossima puntata, certo. Perché questo non tutte le volte che volete, ragazzi. Questo non rimane qui ancora a lungo conoscendolo. No, mi sa di no. Beh, buon viaggio anche a voi, buon proseguimento in giro per il grazie, mondo. Grazie, reale davvero. Mistico. grazie davvero per essere stato qui. Quindi Lorenzo, noi ci salutiamo, diamo appuntamento al prossimo mercoledì, meta da definire, insomma, vedremo in corsa. Chiudiamo con un pezzo scelto da Zucchi, un pezzo di Tom Waits che si intitola Telephone Call from Istanbul. Grande Tom Waits. Però Francesco, io ho un'ultima curiosità, ma come sono le turche? Beh, sai com'è, ci sono quelle più belle, quelle un po' meno belle. Ok, perché a me han detto che sono dei cessi. E con questa chiudiamo. Living in a medicine chest, Mediterranean hotel bag, sprawled across a roll-top desk. The monkey rode a plate on an overhead fan. They paint the donkey blue if you pay. I got a telephone call from Miss Istanbul. My baby's coming home today. Will you sell me one of those if I shave my head? Get me out of town, is what the fireball said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's the festival, Friday's the gym. Dye your hair yellow and raise your hem. Follow me to beauties on Dry Queen Road. I got the weather handy, my baby done so. I got you where I had that my baby done.